Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È una puntata insolita del cacciatore di libri perché apriamo con l'intervista ad un attore, uno dei grandi attori italiani conosciuti anche all'estero, Giancarlo Giannini. Ne parliamo perché in libreria la sua biografia «Sono ancora un bambino, ma nessuno può sgridarmi», scritta dallo stesso Giannini insieme alla giornalista Gabriella Grayson, pubblicata da Longanesi. In questo libro Giannini parla del suo sodalizio lavorativo noto, arcinoto, con Lina Wertmüller e Mariangela Melato, ma parla anche della sua passione per la cucina, degli incontri con altri grandi del cinema internazionale come Francis Ford Coppola e Ridley Scott e della passione che ha per l'elettronica. Ma perché Giannini ha deciso solo ora, in questo momento della sua vita, di scrivere la sua biografia? Sentiamolo. Questa è una domanda che mi sono fatto proprio stamattina. E ogni tanto me la faccio continuamente, ma perché si pensa a scrivere questa cosa? In realtà io capisco che la vita di un attore, perché poi quello è il mio mestiere, incuriosisca molto le persone, le cose vogliono sapere, eccetera. Di scrivere sulle cose che ho fatto sulla mia vita mi è stato chiesto addirittura la prima volta forse 35-40 anni fa in America. In America volevano, tutti, no, assolutamente. Mi avrebbero pagato anche molto, penso un po' che stupido, avrei dovuto farlo. Ma comunque non mi ha mai incuriosito questo fare. Vabbè, sono passati tanti anni, sempre qualcuno mi ha chiesto scrivi qualcosa, ho detto, ma cosa vi interessa? Non interessa neanche a me il passato, nel mio libro lo dico, non mi interessa il passato, mi incuriosisce sempre il futuro, quello che sarà, fino a che non ci sarà più, oppure ci sarà un'altra dimensione. Ecco, quello mi interessa di più. Poi non so perché, ti spiego perché una giornalista, che è quella che mi ha aiutato poi, che ha preso da ore e ore di registrazione dei pezzi, li ha sintetizzati, io poi li ho corretti e abbiamo deciso di... Ma perché? Perché io ultimamente ho fatto un film prodotto da me, uno dei forse gli ultimi film molto costosi e anche girati ancora in pellicola, che era Ti ho cercato in tutti i necrologi. Chissà perché la parola necrologio è quella che allontana, invece chissà perché, insomma, io parlo molto della vita e la morte nel film, la vita e la morte sono la stessa faccia della medaglia, non bisogna aver paura, ne parlo molto di questo. Ecco, siccome questa persona, questa donna ha visto il mio film e ha capito tutto, ha scritto delle cose che forse che io avevo intuito e che volevo raccontare nel film, è stata una che ha fatto una recensione, ricordo un articolo, vedendo il film e capendo tutto. Nel film si parla molto della vita e ha un senso abbastanza poetico della vita e anche della morte. E lei che mi ha proposto, ma perché non scriviamo delle cose riguardo quello che è il sottotesto di questo film, che in fondo è un po' il senso della tua voglia di esprimerti come attore, voglia di esprimerti anche come pensiero, no? Perché poi viviamo per quello. Ho pensato a questa piccola cosa, così, di questa persona che ha capito qualcosa, e detto sì, facciamolo insieme. C'è qualcosa che secondo te il pubblico, le persone che ti conoscono solo attraverso i film, non ha mai capito di te e che attraverso questo libro potrebbero comprendere un po' di più? Sì, penso che, oddio, non si capisce mai nulla delle persone, tanto di te non capisci neanche di te stesso, cioè cerchi continuamente, anzi il divertente è scoprire sempre qualcosa di diverso ogni giorno, no? E sai, per chi fa questo mestiere generalmente le persone ti conoscono per i personaggi che fai. Io ricordo quando un primo film che ha avuto molto successo, che era Mimì Metallurgico, Ferito nell'onore, cose, era un personaggio talmente popolare, talmente così vitale in un modo molto semplice, le cose mi incontravano, mi davano delle pacche sulle spalle, ehi Giancarlo, guarda, ho visto Mimì, oh Mimì mi chiamavano, insomma diventi, ma si capisce questo, lo puoi comprendere, ma perché mi devi una paccata sulle spalle come se fossimo amici da 10 anni, no? E questo lo capisci, ma loro ti vedono un po' come sei, com'è quel personaggio. Ho avuto anche molti incontri femminili, anche abbastanza belli, sono abbastanza soddisfatto della mia vita di aver incontrato delle bellissime donne, ma probabilmente l'ho incontrate perché mi hanno visto sul grande schermo, ben illuminato, con i begli occhi, e forse pensavano che fossi quello là. Io a volte glielo ho detto ad alcune, guarda che non sono quello là, sono un po' diverso, forse lo scopriamo insieme come sono. In realtà poi alcune non gliel'ho detto proprio, sì quello là, sì sono proprio quello lì, hai capito? Cioè, non ti dà anche un po' fastidio, non ti pesa anche un po' questa eccessiva visibilità? questo è quello che devi mettere in conto, è come dire, devi amare i difetti della persona che ti incuriosisce, non i pregi, è troppo facile, no? Quindi in questo mestiere devi amare anche quello che forse può dare fastidio, perché effettivamente per un attore conosciuto che non cammina per strada solo e ti ferma quello, oggi sono diventati tutti fotografi col telefonino, la prima cosa che fanno, facciamoci una fotografia, e tu o la fai o puoi dire no, non la faccio, insomma, puoi dire, ma generalmente stai al gioco, perché capisco che una parte rompiscatole proprio. Io una volta avevo un sistema quando non c'erano ancora i telefonini, ma l'autografo, allora ogni volta che uscivo per strada la mia faccia diventava quasi... era un rompicoglioni, insomma. Così nessuno non si avvicinava. Non mi avvicinate perché ho tanti pensieri per la testa. Insomma, li spaventavi per non farti rompere le scatole. In questo libro, ovviamente, racconti molto anche di Lina Wertmüller, che insomma è stato un sodalizio professionale eccezionale nella tua vita. Beh, è fondamentale, devo dire. Ma tu stai parlando di quello che poi racconto nei libri, di tutti gli incontri fortunati, in questo mi ritengo fortunato nella mia vita, gli incontri che ho fatto che hanno sono sempre state delle pillole di conoscenza, io dico, che ho messo insieme, ho cercato di creare, a parte la mia, quella che poteva essere la mia conoscenza, ma quando incontri delle persone che hanno dei mondi che ti raccontano, tu devi fare tesoro di questo. Se non avessi incontrato Lina, forse non sarei qui a parlare con te adesso. Quindi è fondamentale l'incontro con lei, ma proprio perché ho incontrato una persona che faceva il cinema. Io facevo il cinema, anzi devo dire che è stata la prima che me l'ha fatto fare in un certo modo e mi ha insegnato tante cose, che vive scrivendo. Mi piace scrivere, lei ha scritto canzoni, ha scritto commedie musicali, commedie, sceneggiature, quindi una pratica bella proprio della scrittura. Poi che adopera la macchina da presa e la sa adoperare molto bene, ha fatto l'aiuto di Fellini, quindi avrà imparato qualcosa, avrà aggiunto anche lei qualcosa di suo, e quindi incontri una persona che vive anche di quello e quindi sa tutti i segreti e te li insegna, perché l'attore tanto è una persona che ama l'attore, attore, uomo, attrice, quello che vuoi, proprio quasi un rapporto molto forte, no? Beh, ritornando a Lina, era una che conosceva benissimo queste cose, sapeva benissimo che cos'era l'attore. Guarda che il regista poi deve essere un grande psicologo, deve capire chi ha di fronte, che tipo di attore ho, quanto si spaventa, perché la macchina da presa spaventa. Cioè essere al centro di un momento silenzioso in cui esiste una macchina da presa e tu sei l'artefice di qualcosa che andrà in tutto il mondo ed è fissata così, insomma, è una responsabilità enorme, perché dice oggi devo fare qualcosa che fa ridere, e se non fa ridere, beh, insomma... Ma volevo aprire una piccola parentesi che forse pochi conoscono. L'ho capito leggendo dei libri, perché una volta sono dovuto andare a un'università a Torino a parlare della comunicazione, eccetera, così, non so perché, non sono un professore di cose, però essendo uno che fa l'attore, quindi comunica le cose. E ho letto dei libri abbastanza interessanti per informarmi un po' sulla materia. E sai che la paura più grossa che ha nel mondo l'uomo, sai qual è? Non è la morte, è dover affrontare una platea e parlare. Questa è la paura, pensa che non lo sapevi, ma è vero, è la cosa in cui uno veramente se la fa sotto, è la paura più forte, dopo viene la morte. Soltanto in Inghilterra c'è una variante, che la prima paura degli inglesi non è parlare in pubblico, parlare con una cosa, sono i ragni, pensa un po', e ci sono delle variazioni sempre, come tu mi dici, ad esempio, prima, io fumo solo d'estate, non lo so, d'inverno cosa fai? Ah no, la sigaretta mi dà un senso anche di rigetto, un caso patologico sei, però anche in questo caso, questa è una parentesi che ho voluto aprire, visto che la nostra discussione prima della registrazione è cominciata così. E ti ho anche detto che non mi faccio più domande. È che non ti fai più domande e che non bevi caffè, quindi dovresti scrivere un libro... Fumo solo d'estate, non mi faccio più domande e non bevo mai il caffè. Pensa, forse è successo più del mio, sono ancora un bambino che nessuno può sgridarmi. E quindi con la Wertmüller veramente il processo di crescita che ho avuto con questo mestiere è stato fondamentale, che poi mi sono portato dietro anche con altri registi. Ma Vedi, la cosa bella di questo mestiere è che non c'è solo Lina Wertmüller che ti ha dato delle basi, poi incontri altre persone, incontri un Visconti, incontri un Fassbinder, incontri un Ridley Scott, incontri un Coppola, incontri un Monicelli, incontri un Dino Risi, incontri tanto per dire quello che... E il rapporto che nasce con questi è straordinario, perché tutti e due, io attore e tu regista, stiamo cercando di raccontare una bellissima favola, hai capito? Quindi entriamo in un mondo, e sicuramente la testa di Dino Risi è diversa da quella della Wertmüller, e la mia è diversa da quello che può essere un altro attore. Quindi è un incontro, una simbiosi strana di un mondo veramente virtuale, e quindi ogni volta ti metti in una fantasia straordinaria, infantile, bellissima, perché è un gioco. Io non amo molto l'attore che sta, non so, davanti al malato terminale per carpirne i segreti per diventare come lui, oppure entrare nel personaggio. Non ho mai capito che cosa significa, come si fa a entrare in un personaggio, me lo spiegate? Io faccio l'attore, lo voglio sapere. No, il personaggio si rappresenta, il personaggio, come si chiama questo mestiere in inglese? To play, che vuol dire giocare. In francese, jouer, giocare, noi soltanto interpretare, ma interpretare vuol dire anche rappresentare, vuol dire divertirsi a prendere Shakespeare, ha scritto Amleto, ah che bello, essere o non essere, questo è il problema, no? E lo racconti, no? Ma racconti Shakespeare, racconti, cosa che, perché devo diventare Amleto? Guarda, ti racconto, quando io ho fatto Romeo per 3 anni in tutta Europa, bellissimo spettacolo, regia di Zeffirelli, io avevo 20 anni, e quando fai Romeo puoi avere una Giulietta bellissima, ti puoi anche innamorare di lei, tutto quello che dici nasce veramente da, entri dentro a quel personaggio amoroso e innamorato, no? Ma quando Romeo prende appunto quel veleno che ti ho detto prima, che gli dà quel signore che incontra in mezzo alla strada, e lo beve perché vede Giulietta che non è morta ma che finge, perché c'è tutta la storia del coso, e muore. Quei 15 minuti in cui deve stare così, entra il principe, si sveglia Giulietta, Giulietta gli prende il pugnale, si ammazza pure lei, eccetera, tutta questa tragedia. Ma quando è morto lì, cosa fa? Come fai a entrare nel personaggio di un morto? Lo fingi. E allora se fingi quello, cosa vale tutta l'altra cosa? Fingi tutto. Nel libro anche racconti di questa tua grande passione per l'elettronica, no? Insomma, lo dichiari sempre, e a volte anche sul set ti mettevi o ti metti ancora ad aggiustare le cose, è proprio una tua passione. Ma guarda, il mio mestiere dovrebbe essere quello dell'elettronico, insomma, non solo, sono anche uno che ha dei brevetti unici al mondo di elettronica, Washington, difficilissimo, non conviene prendere, tanto dai giapponesi, cinesi te li fregano tutti, basta che cambiano una piccola cosa. Tant'è vero che oggi leggi, per avere una patente, patent, la famosa patent che sarebbe il brevetto americano, ci vogliono 6-7 anni, vanno a vedere dai primi 900 ad oggi se qualcuno ha fatto qualcosa simile alla tua, oppure, e quindi puoi avere, no ma questo cosa l'ha fatto già quello là, quell'altro, quindi puoi avere una percentuale della tua patente, il 20%, il 100%, eccetera. Questo è il mio mestiere, insomma, io sono nato così. Forse nel libro avrei letto come passare dall'elettronica a fare l'attore, la stessa cosa, insomma. E questo era Giancarlo Giannini, attore. Ora in libreria con la sua biografia Sono ancora un bambino, ma nessuno può sgridarmi, scritta insieme a Gabriella Grayson, pubblicata da Longanesi. E ora veniamo al romanzo La Valle delle Meraviglie di Amy Tan, pubblicato in Italia da Salani. L'autrice è un'americana, figlia di cinesi, di origine cinese. Amy Tan ha venduto oltre 7 milioni di copie nel mondo con i 5 precedenti libri. Il più famoso è sicuramente Il Circolo della Fortuna e della Felicità, dal quale, fra l'altro, era stato tratto un film. Protagonista di quest'ultimo romanzo, che lo ricordiamo si intitola La Valle delle Meraviglie, è Violet, una ragazza cresciuta a Shanghai nei primi del Novecento, nella casa di piacere gestita da sua madre Lulu, che è un'americana dal passato misterioso. Violet le rimprovera soprattutto di non volerle rivelare chi è il padre. Il romanzo si divide così fra Shanghai e San Francisco. Possiamo dire che questo è un romanzo sullo stile di Memorie di una geisha di Arthur Golden o di Cigni selvatici di Chang. L'autrice è stata poco tempo fa in Italia e l'ha incontrata Miriam Korjat. Nel suo libro La Valle delle Meraviglie non è la prima volta che affronta il tema del rapporto tra madre e figlia. Qual è la particolarità di questo tema nel romanzo e perché ha deciso di ritornarci sopra? Prima di iniziare a lavorare su questo libro, ho trovato una vecchia fotografia che era appartenuta a una delle mie nonne e che ritraeva un gruppo di cortigiane. E ho capito che mia nonna era stata probabilmente una di loro e non la donna di classe che la mia famiglia diceva che fosse. A quel punto ho dovuto riconsiderare la sua figura e la sua vita, ma anche gli insegnamenti di mia madre e il loro ruolo nella mia vita. La protagonista del romanzo, Violet, come anche lei, vive una doppia appartenenza, da una parte alla Cina, dall'altra agli Stati Uniti. Come si vive questo dualismo? È solo una fonte di ricchezza o può anche essere una difficoltà? Questa doppia appartenenza per Violet, ma più in generale per le donne di quell'epoca, aveva un valore molto diverso da quello che ha oggi. Una ragazza, per così dire, di sangue misto, sarebbe stata abbandonata in un orfanotrofio e non avrebbe avuto nessuna opportunità, per esempio, di sposarsi o di avere un lavoro. La mia doppia appartenenza, invece, mi ha portato a interrogarmi su chi fossi veramente. Mi chiedevo, sono più americana o più cinese? Se sarebbe stato meglio non avere sangue cinese. Adesso sono felice di avere questa ricchezza, di aver trovato il modo di unire le due culture. È come un bonus e non devo più decidere quale delle due sia migliore o peggiore. Attingo da entrambe per allargare l'orizzonte della mia vita. Fit that into my life to make my life larger. Il suo romanzo parla di un mondo abitato soprattutto da donne. Come mai ha scelto di ambientare questa storia in un mondo femminile? I'm interested in women because I am a woman. Le donne mi interessano perché anch'io sono una donna. Sono sicura che potrei scrivere un romanzo mettendomi nei panni di un uomo, ed è quello che ho fatto in alcuni capitoli di un mio libro precedente. Ma le questioni che trovo più interessanti sono quelle che mi riguardano in quanto donna. Nel libro, in particolare, ho voluto parlare dei tabù contro cui ci ribelliamo, del significato che hanno per noi l'amore e l'indipendenza, e di come tutte queste cose siano diverse per noi e il modo in cui si intrecciano con il contesto in cui viviamo. Mi interessa meno osservare queste cose negli uomini perché le loro vite non fanno parte della mia identità. Loro vivono secondo presupposti diversi, hanno un potere che gli permette di dare alcune cose per scontate. Per questo le nostre domande, le nostre battaglie, per loro hanno un valore e un'importanza completamente diverse. Se vogliono avere un figlio, per esempio, non devono porsi la questione se lasciare o meno il proprio lavoro, non devono far convivere il proprio successo professionale e la propria abilità come genitori, non sono tormentati dai sensi di colpa come le donne. È per questo che mi interessa di più occuparmi, in quanto scrittrice, del mondo femminile. Much more interested in writing about the lives of women. Il mantra della madre di Violet, Lulu, è una scelta inevitabile. Che cosa significa questa frase? E secondo lei ci dice anche qualcosa sulla condizione delle donne raccontata nel suo romanzo? Some cases it's a false compromise because è un'espressione che nasconde un falso compromesso che nasce dal dilemma morale che sottende tutto il romanzo. Nella cultura cinese ci sono alcune questioni sulle quali non hai scelta. Devi scegliere necessariamente una cosa. Per cui quando Lulu parla di scelta inevitabile, parla della condizione di ogni ragazza cinese. Per questo lei crede di non poter fare nulla per cambiare il destino delle ragazze cortigiane. Violet capisce che il compromesso morale che regola la vita e l'attività della madre è fasullo, ma poi si ritrova a suo malgrado a farci i conti. Quello che vive, però, è un compromesso necessario, l'unica alternativa al suicidio, che è quello che infatti molte donne hanno fatto. Il 25% delle cortigiane in Cina si sono tolte la vita. È una cifra impressionante, ma dà la misura di quanto sentissero come inevitabile questa scelta. It's huge. I mean, when you feel you have no compromises, you have no other choices, that's what happens to women of that age. Quindi possiamo dire che quella che combattono Violet e Lulu sia in qualche modo una battaglia interna tra morale e amore? Any two people in love. Due persone che si amano vivono sempre un compromesso tra l'amore e la necessità di proteggere se stesse e si trattengono finché non sono sicure che il loro sentimento è corrisposto con la stessa intensità, finché non hanno la certezza di venire accettate in modo incondizionato. Lulu e Violet, però, vivono in un mondo in cui un amore senza riserve non esiste. Lu Xing, l'amante di Lulu, obbedirà sempre al volere della propria famiglia e non potrà mai realizzare il desiderio di amore di Lulu. Per questo è costretta a proteggere se stessa e a non avere aspettative. Questo la rende dura, arrabbiata, ed è proprio la sua rabbia a darle l'energia per convivere con le restrizioni della sua vita sentimentale. Violet vive nell'ambiente delle cortigiane, dove il vero amore non esiste, o meglio, non è possibile. Lei stessa non può sposare l'uomo che ama perché è una cortigiana. Anche se simula l'amore ed è consapevole della finzione, d'altra parte desidera anche l'amore vero. Un desiderio condiviso da tutte le cortigiane di quell'epoca che per questo motivo spesso scappavano con un cliente, convinte di essere amate. Poi però finivano per perdere tutti i loro risparmi e si ritrovavano sul lastrico. Per questo, in quell'ambiente, nascondere i sentimenti diventava essenziale per tutelarsi. They lost all their money. They stopped charging the men, and they ended up in the gutter. So it's a very important thing to hide feelings, to safeguard their toughness. Lei ha scelto di ambientare la storia a San Francisco e a Shanghai. Sono due città particolari, cosmopolite, molto grandi. Come mai le ha scelte? I live in San Francisco. I was born in that region. Vivo a San Francisco, sono nata in quella regione. Mia madre invece è nata e cresciuta a Shanghai. Abbiamo moltissimo in comune, ma allo stesso modo i nostri percorsi di crescita sono stati diversissimi. Per questo le due città e i due paesi mi interessano così tanto, a partire dai loro tratti comuni. San Francisco è una città molto cosmopolita, così come Shanghai. Quando è partita, mia madre si è lasciata dietro tutta la sua vita precedente per approdare dall'altra parte dell'oceano nella città americana più vicina a Shanghai, ovvero San Francisco. Dal punto di vista emotivo, queste due città rappresentano la distanza che separa me e mia madre. Ma ci siamo comunque ritrovate, da qualche parte in mezzo all'oceano. So for many, many reasons, emotionally, it represents, those two countries represent that divide that my mother and I had. We meet somewhere in the ocean. Il suo è un romanzo immerso nella storia. Come si è calata nell'atmosfera e nella storia della Cina, ma anche di San Francisco di inizio Novecento? Ho dovuto fare delle ricerche, soprattutto su Shanghai. Ho cercato delle informazioni su come si vive, dalla moneta utilizzata a come ci si veste. Dopo aver individuato le informazioni che mi interessavano, ho iniziato a cercare libri sulla cultura di Shanghai di fine Ottocento, direttamente a Shanghai. Poi ho parlato con tre studiosi specializzati nella storia dell'area. Ho anche visitato la città, dove ho visto i musei di storia, e ho visitato una mostra fotografica in un'altra regione. Ma non è stata una vera e propria ricerca. Visitare musei, ascoltare studiosi, per me è stata come un'indagine per trovare la risposta a un mistero, quello che avvolgeva la vita di mia nonna. E immergendomi nel mondo di cortigiane in cui ha vissuto, credo di aver trovato una risposta. Different things that I did, but was all with fascination. I didn't think of it as research. It was like finding the answer to a mystery for me, and that was to live in the world of my grandmother. E questa era Amy Tanner in libreria con La Valle delle Meraviglie, pubblicato in Italia da Salani. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che ci trovate su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio 24, ci sono i podcast su radio24.it e potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.